Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. In questa puntata, incontro con Francesco Pecoraro, arrivato terzo al premio Strega. È in libreria con La vita in tempo di pace. Apollonio, questo sconosciuto. Un saggio di Misca Ruggeri riaccende il faro sul cosiddetto Gesù pagano. La vita in tempo di pace, scritto da Francesco Pecoraro, pubblicato da Ponte alle Grazie, uno dei cinque libri finalisti del premio Strega. È un libro piuttosto complesso, sia per la struttura che per come è narrato. Complesso non vuol dire naturalmente difficile, ma vuol dire che ci vuole una certa, secondo me, concentrazione per affrontarlo. Partiamo proprio dalla struttura di questo romanzo. L'io narrante cambia spesso, viene narrato a volte in prima persona, in terza persona. Come mai hai scelto questa forma narrativa? Questo che per te è il tuo secondo romanzo, sappiamo che hai scritto poesie, eccetera, però dal punto di vista della prosa questa è la tua seconda prova. Avevo bisogno di più punti di vista, fondamentalmente. Avevo bisogno di stare dentro il protagonista e nello stesso tempo di raccontare quello che accadeva fuori. Naturalmente questo non accade in tutte le parti del libro. Il libro è fatto, diciamo, di due fondamentali strutture, cioè il tempo, diciamo, dell'attesa che arrivi questo aereo che lo riporta nella sua città e che è, diciamo, scandito in un certo numero di parti, e poi ci sono delle narrazioni invece proprio a cura dello scrittore che tornano indietro nel tempo a illuminare alcuni momenti dell'esistenza di questa persona. Ho pensato che entrare e uscire dall'io di Ivo Brandani si potesse fare. In effetti mi sembra che poi alla fine la narrazione non ne risente in maniera particolare. Ivo Brandani è dunque il protagonista di questo romanzo, un uomo quasi 70 anni che, appunto, come dicevi tu, passa una parte del suo tempo in questo aeroporto, deve rientrare in Italia, ha fatto un lavoro in Egitto e a un certo punto definisci l'aeroporto come un luogo di quasi pensieri mistici, perché è proprio nell'aeroporto che Ivo Brandani inizia a pensare a una serie di fatti, di episodi della sua vita, tant'è vero che si va a ritroso dal 2015, quindi un anno in avanti a quello in cui ci troviamo, fino ad arrivare all'anno in cui è nato. Perché secondo te l'aeroporto ha questa caratteristica? Cioè, è qualcosa che hai attribuito al tuo personaggio o lo pensi veramente? Ma questa è una cosa che io provo un piacere enorme in una certa zona dell'aeroporto, che è poi la sala d'attesa ai cancelli d'imbarco, perché è veramente un luogo di sospensione totale, o perlomeno per quanto mi riguarda è così, perché l'attesa del volo ha un qualcosa di strano, di particolare. Volare è una cosa controintuitiva, tutto sommato ne abbiamo paura, non tutti ma quasi, quelli che non ce l'hanno sono un po' incoscienti, e io lì provo un senso di sospensione di tutto. È come se non si diventa quasi dei corpi che devono essere trasportati, hanno pagato per farlo, e quindi mi sento un corpo pensante, tranquillo. È così che Ivo Brandani, appunto, ci fa conoscere a noi lettori la sua vita. Perché hai deciso di partire da un anno in più? Tu parti dal 2015 e poi ritorni all'anno di nascita del protagonista. Non è soltanto un anno in più, è anche, cioè, in esergo c'è una sorta di avvertenza al libro che dice che in realtà non si tratta del nostro stesso universo, o meglio, la vicenda si svolge in una sorta di universo parallelo in cui ci sono alcune cose che coincidono con il nostro e altre no. L'ho spostato, non so bene perché l'ho spostato di un anno, non potevo tenerlo nel presente e non potevo tenerlo nel passato, perché, anche perché accade una cosa nel libro che è del tutto ipotetica, che non è accaduta e che potrebbe accadere, non sappiamo se accadrà, e non sappiamo se accadrà nel 2015, quindi ho avuto bisogno di, non lo so, di spostarlo rispetto al tempo presente. All'inizio proprio del romanzo si dice che il protagonista Ivo Brandani è ossessionato dal senso della catastrofe, no? Vede la catastrofe in qualsiasi gesto quotidiano, insomma, cosa che effettivamente può accadere. E questo senso di catastrofe è fondamentale per il suo carattere, per il modo in cui lui vive il mondo e vede il mondo? Sì, diciamo che lui se l'ha costruito attraverso la sua formazione di ingegnere. Nel libro ci torna spesso, ci pensa spesso, perché in fondo l'ingegnere non fa altro che radunare elementi che sono in uno stato più o meno caotico, più o meno disordinato, e dargli una forma che serve a qualcosa. E tuttavia questa forma è provvisoria, non solo, ma questa forma, se io creo forma in una certa parte del mondo, creo, diciamo, un maggiore disordine, creo caos in un'altra parte, proprio perché i materiali con cui costruisco una cosa li traggo da un altro luogo e quel luogo viene in qualche maniera manomesso. Quindi c'è questa, in lui c'è questa sorta di ossessione. Di ossessione per il pericolo del ritorno al caos di ogni cosa. Questo è un po' ed è naturalmente un'ossessione nevrotica. Infatti ha degli elementi nevrotici il personaggio, anche dei momenti in cui il panico prevale nella sua vita. Lui guarda il mondo attraverso episodi di panico. Secondo te Ivo Brandani è, come dire, un personaggio tipico dei nostri tempi? Cioè, hai voluto rappresentare qualcosa con lui o semplicemente era un personaggio che tu avevi voglia di raccontare? Anche perché ricordiamo che attraverso la storia personale di Ivo Brandani si ripercorre un po' la storia dell'Italia, perché ci sono fatti naturalmente della storia con la S maiuscola che intervengono nella storia personale. Per prima cosa voglio dire che io non volevo fare un romanzo storico. Naturalmente, se si narra la vita di una persona, si danno dei dati anche precisi, anche determinanti rispetto al momento, ai momenti storici che vive e che quindi incidono sulla sua vita e rispetto ai quali lui è costretto, volente o nolente, a dare una risposta, a prendere una posizione, a fuggire, ad attaccare, ad arretrare, a schivare oppure a sfruttare le situazioni. Io volevo che Ivo Brandani fosse un borghese. Ivo Brandani è in effetti di origine borghese, è un privilegiato, nonostante sia fondamentalmente un perdente, gode per tutta la vita dei privilegi iniziali che gli sono stati dati dalla sua estrazione di nascita, per cui è uno che ha potuto studiare, che ha potuto anche cambiare corso di studi in un certo momento, passare da filosofia a ingegneria, eccetera. Non è un personaggio tipico, sicuramente, non è un personaggio tipico. È un tecnico che ha la capacità di uno sguardo, come dire, analitico e filosofico, proprio perché ha fatto un determinato tipo di studi. In questo senso qui non credo che sia un personaggio tipico, diciamo così. La sensazione che si ha quando si legge questo romanzo è che non sia un romanzo di trama. Sì, accadono delle cose naturalmente, ma sono più flussi di pensieri e di riflessioni del protagonista su se stesso e su quello che lo circonda. È per questo che all'inizio dell'intervista io dicevo: è un romanzo complesso, cioè non è facile da approcciare. Pensi che questo possa essere un vantaggio o uno svantaggio per il tuo romanzo, parlando proprio così, rispetto ai lettori? Ma guarda, in realtà esistono degli elementi di trama, ma sono elementi episodici. Non esiste se racconto l'esistenza di una persona, non la posso raccontare in termini come se la sua esistenza avesse delle vicende coerenti fino alla fine, che iniziano in un determinato modo, si svolgono e poi trovano una conclusione. Le nostre stesse esistenti hanno momenti di senso, hanno delle vicende che si aprono e si chiudono, ma nella maggior parte del tempo non hanno trama, non hanno struttura. Il libro è un po' questo. Tuttavia nel libro appunto esistono due momenti, cioè il momento della riflessione del personaggio e c'è il momento in cui il personaggio vive. Ci sono una serie di momenti, sono 8, 7, 8 capitoli, anche alcuni abbastanza lunghi, in cui il personaggio vive delle vicende, in alcuni casi anche abbastanza romanzesche. Io non mi sono posto il problema di chi avrebbe letto questo libro. Non so se sia un vantaggio o uno svantaggio. Io so che anche lettori, diciamo, non particolarmente forti o non particolarmente interessati a narrazioni complesse sono stati poi trascinati fino alla fine da questo libro. Ci sono dei momenti in cui si fa anche della critica sociale, non so, mi viene in mente il punto in cui Ivo Brandani parla un po' con se stesso, dice: Ivo, non ti sei reso conto delle corruzioni, delle tangenti, di come va il mondo, insomma, in alcuni aspetti lavorativi. In questo hai voluto fare una critica tua personale, oppure è appunto è semplicemente una persona che riflette e guarda le cose come vanno intorno a lui? Guarda, non si può scindere la storia del nostro paese dal 45 fino ad oggi, gli ultimi 70 anni di storia, dalla corruzione. La storia del nostro paese è impastata di corruzione dall'inizio alla fine, la forma delle nostre città è il prodotto della corruzione, le carriere personali sono moltissime di queste carriere, sono il prodotto di clientelismi, corruzione, eccetera. Quindi se se ne vuole parlare in termini seri, come ho tentato di fare, anche se non particolarmente analitici e nemmeno particolarmente poi alla fine interessati, non si può prescindere da questo. Chi non ha capito questo nel corso della propria vita, o chi l'ha capito ma non ha saputo agire, o per remore morali o per proprio incapacità di muoversi, beh, insomma, è passato in secondo piano, ha pagato uno scotto di fatto. Francesco Pecoraro ha, diciamo, la fama di essere una persona schiva, riservata, insomma, non è uno che frequenta il mondo, per esempio, dell'editoria, degli scrittori. Perché partecipare, accettare la candidatura al premio Strega, perché la candidatura al premio Strega deve essere accettata dal singolo scrittore, sapendo benissimo che il faro si accende sui 5 finalisti dello Strega e quindi si viene analizzati, rimestati, intervistati in tutti i modi? Ma in realtà non sono estraneo nel mondo dell'editoria, la mia compagna è direttore editoriale della La Terza, quindi in realtà frequento una serie di amicizie. Ma non sei un mondano, insomma. Non sono un mondano. Ho accettato questa di fare lo Strega per promuovere il libro. Non vedo lo Strega come un momento di autopromozione, vedo lo Strega come un'occasione che ha il libro di stare un pochino più nell'attenzione dei media e quindi di avere di conseguenza anche l'attenzione dei lettori. Beh, c'è una cosa importante effettivamente che non abbiamo ancora detto di questo libro, il senso del titolo, La vita in tempo di pace. Perché racchiude un po' tutto il senso di quello che hai voluto narrare. Hai raccontato la storia di questo personaggio in 70 anni in cui l'Italia è vissuta in tempo di pace. Eppure questa pace sembra non aver sortito effetti poi così positivi sulle persone. Questa è una risposta abbastanza difficile da dare, nel senso che se è vero che non si è trattata di vera pace, perché la vera pace non esiste, perché la società umana è di per sé conflittuale e in particolare la società italiana in questi momenti di tumultuosa crescita oppure di arresto della crescita, di recessione, conflitti sociali anche violenti, conflitti politici sanguinosi, consorterie, mafie, associazioni, partiti, è stata una giungla molto difficile da vivere per chiunque. Tuttavia il tempo di pace in sé nell'Occidente ci ha portato una quantità enorme di vantaggi, a partire dai vantaggi scientifici, che ne so, per esempio la medicina, campiamo molto di più, abbiamo cibo a sufficienza, insomma, voglio dire, da una parte abbiamo pagato il prezzo della pace in termini appunto di conflitto strisciante, di conflitto non aperto, come invece la guerra, che per certi versi è più chiara ed è anche più conoscitiva rispetto a quello che noi siamo capaci o non capaci di fare, e dall'altra però abbiamo goduto di alcuni aspetti fondamentali, diciamo, del progresso complessivo dell'Occidente. Grazie a Francesco Pecoraro, ora in libreria con La vita in tempo di pace, pubblicato da Ponte alle Grazie, uno dei libri finalisti nella cinquina del premio Strega. Normalmente il cacciatore di libri si occupa di libri di narrativa, di romanzi. Ogni tanto facciamo qualche eccezione, qualche incursione nella saggistica. Come in questo caso, per questo saggio che si intitola Apollonio di Tiana, il Gesù pagano, scritto da Misca Ruggeri, pubblicato da Mursia con la prefazione di Luciano Canfora. È un libro interessante perché attraverso appunto questo saggio ho scoperto delle cose di Apollonio che francamente assolutamente non sapevo. Ammetto la mia ignoranza su Apollonio. Allora, Misca, innanzitutto tu hai preso, insomma, l'idea di scrivere un saggio su Apollonio partendo da un fumetto. Sì, l'ho scoperto tanti anni fa leggendo un albo di Martin Mister, che si basava appunto su un po' la leggenda di Apollonio, perché si dice che l'iconografia del Cristo, quella diciamo occidentale, per fare un esempio comprensibile a tutti, il Gesù di Zeffirelli, ecco, quell'uomo alto con i capelli lunghi, gli occhi azzurri, deriva da Apollonio di Tiana. E questo poi, vabbè, Castelli lo sviluppa anche in modo molto, insomma, così fantascientifico, e però è stato quello e là che mi ha fatto interessare al personaggio, che poi ho scoperto anche, insomma, a livello un po' più alto nelle poesie di Cavafis. Gli dedica ben 5 componimenti. Insomma, Apollonio entra un po' dal fumetto ai romanzi ai classici. Diciamo che era un filosofo, innanzitutto, epoca. Sì, è un contemporaneo di Gesù, quindi diciamo che la data di nascita dovrebbe essere intorno al 4 d.C. e la morte intorno al 98 d.C. Ecco, tu anche nel titolo del libro appunto lo definisci il Gesù pagano. Perché di Apollonio si sa relativamente poco e invece della storia di Gesù si sa molto molto di più? Sì, guarda, i primi a paragonare Apollonio a Gesù sono stati i pagani ben 2 secoli e mezzo dopo la morte di Apollonio, quando si era nel vivo nelle controversie con il cristianesimo, e allora prima Porfirio, poi soprattutto un funzionario di Diocleziano, che era diciamo il protagonista dell'ultima grande persecuzione dei cristiani, hanno paragonato e contrapposto Apollonio, soprattutto i miracoli di Apollonio, perché anche lui quindi faceva miracoli, faceva diciamo miracoli, guarigioni appunto miracolose, profezie, ha risuscitato addirittura una fanciulla a Roma, questo, e non nella Palestina, che era diciamo nella periferia dell'impero, ma proprio nella Caput Mundi. E quindi i pagani dicevano che i miracoli di Apollonio erano molto superiori a quelli di Gesù. Ovviamente qualche anno dopo, con Costantino, i cristiani hanno vinto questa battaglia culturale e religiosa, e Apollonio è diventato una sorta di anticristo. C'è stata una damnatio memoria nei suoi confronti, e quindi è sopravvissuto soltanto in citazioni di letterati, eruditi e gente che andava a curiosare e andare a ripescare questo personaggio molto particolare. È considerato un personaggio, ecco, di riferimento anche spirituale o solo filosofico? No, anche spirituale, perché poi nel corso dei secoli, soprattutto esoteristi, occultisti, io penso ai teosofi, si sono rifatti a questa figura e l'hanno, diciamo, Apollonio è stato annoverato tra i grandi sapienti dell'umanità, perché il suo messaggio, che ovviamente non era rivoluzionario come quello di Cristo, però era un messaggio molto particolare per l'epoca. Per esempio, lui era assolutamente contrario a qualsiasi genere di sacrifici animali, e quindi lui diceva che il Dio, essendo buono, lui parlava, attenzione, di un Dio unico, non di tanti dei, quindi già questa era una cosa particolare. Gli dei non potevano godere, diciamo, del sangue degli animali, e quindi bastava l'incenso, il fumo degli incensi. Quindi e questo contrario è stato ai sacrifici. Sì, poi era vegetariano, un vegetariano ante litteram, perché appunto era pitagorico, quindi si vestiva per esempio di lino, non di lana, perché insomma le pecore non andavano neanche tosate. Ed è un messaggio che, insomma, diciamo ripreso anche dalla New Age, anche nella spiritualità. Infatti pensavo a questa cosa, perché prima, quando ti ho chiesto se sarà un riferimento anche spirituale, pensavo proprio a questo. Tra l'altro il personaggio di Apollonio è comparso anche in alcuni film, cioè in realtà Apollonio è comparso qui e lì nella storia, in libri e film, anche se forse non l'abbiamo ben presente. Sì, infatti il libro, diciamo, più famoso è, non so, La tentazione di Sant'Antonio di Flaubert. Uno dei protagonisti di queste tentazioni a cui è sottoposto l'eremita del deserto è proprio Apollonio, che gli appare insieme al suo discepolo Damis e gli dice: ah, vieni via con me, tipo nei viaggi, tipo la strega con la scopa, vieni via con me, ti faccio conoscere le divinità, tutto il mondo, oltre i confini del mondo, andiamo. Ed è questo è il più famoso, ma poi ci sono anche film, diciamo, serie B, anche se neanche tanto. Il più famoso è Il circo del dottor Lao, che è tratto da un romanzo di Fille degli anni 30, ma negli anni 60 ha vinto l'Oscar per gli effetti speciali, uno dei personaggi era Apollonio. Sì. Senti, tu studiando, insomma, facendo ricerche su Apollonio di Tiana, da che cosa sei rimasto colpito? C'è qualcosa che ti ha particolarmente affascinato di questo personaggio che magari non sapevi, che hai scoperto durante le tue ricerche? Ma guarda, quando ho iniziato non sapevo praticamente nulla, perché nei manuali di storia della filosofia, anche a livello universitario, Apollonio viene liquidato in 2-3 righe dicendo che era un tomaturgo più che un filosofo vero e proprio. Quindi è stata tutta una scoperta, ma una cosa molto importante è che lui ha visto uomini e popoli dell'antichità, tutti praticamente, perché ha viaggiato dalla Spagna all'India, passando per l'Etiopia, che vabbè sarebbe il Sudan attuale. Comunque è stato veramente un grande viaggiatore, che è entrato a contatto con i gimnosofisti, per esempio, dell'Egitto, oppure con i bramini dell'India, e quindi la sua sapienza è una specie di mosaico. Ha preso un puzzle, ha preso le tradizioni che lui riteneva migliori da tutti i popoli del suo tempo, e quindi ha fatto un'operazione sincretistica, ma insomma di alto livello. Ecco, ma Apollonio, nel momento in cui appunto faceva i miracoli e questi miracoli gli venivano riconosciuti, affermava di avere appunto un potere superiore, affermava di avere, come dire, una divinità in sé o no? No, lui non si presentava come, per esempio, Gesù, come il figlio di Dio, ma semplicemente lui diceva che il suo stile di vita, quindi ritorniamo al vegetarianesimo, all'ascetismo, perché appunto era anche casto, insomma questo particolare stile di vita gli permetteva di avere una saggezza particolare, e quindi anche per questo di poter prevedere il futuro, fare profezie. Tutto deriva dalla santità della vita, della sua vita, e da, diciamo, l'occhio favorevole con cui il Dio lo guardava, e quindi era, diciamo, un eletto in questo senso, e per questo poteva avere dei poteri che però erano tutti derivati dalla conoscenza della natura. Cioè i suoi, diciamo, miracoli si basavano sulla conoscenza delle leggi naturali, non è che faceva qualcosa di sovrannaturale. Ma secondo te nella storia ci sono stati altri personaggi come Apollonio, appunto, che hanno compiuto miracoli, definiamoli così, però poi non sono passati alla storia, insomma, sono stati dimenticati? Ma guarda, Apollonio è comunque sicuramente un prodotto del suo tempo, perché appunto dicevamo che era contemporaneo di Gesù, quindi anche di un altro personaggio come Simon Mago, e in quel periodo siamo, insomma, nel cuore dell'età ellenistica, prima età imperiale, c'è un grande vuoto spirituale. Come tutti i vuoti, poi vanno riempiti, e quindi era, diciamo, proprio l'atmosfera del tempo, lo spirito del tempo che creavano certe figure, certe attese, eccetera, e quindi c'era una certa domanda e venivano fuori delle figure così. Ma una cosa particolare che mi piace sottolineare è che i miracoli, a cui ovviamente non credo, di Apollonio, non sono mai stati messi in discussione neanche dai cristiani. Cioè i cristiani criticavano Apollonio, dicevano che i suoi miracoli erano demoniaci, derivavano dalla magia nera, eccetera, ma la realtà di questi miracoli era indiscussa. Anche i grandi padri della Chiesa, Sant'Agostino, Girolamo, anche loro mai mettevano in discussione la realtà di questi miracoli. Insomma, un personaggio da conoscere, questo Apollonio. Grazie allora Misca Ruggeri, autore di Apollonio di Tiana, il Gesù pagano, pubblicato da Mursia. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che in questo periodo estivo gli appuntamenti con Il Cacciatore di Libri si moltiplicano. Allora, il sabato il primo appuntamento per i mattinieri alle 6:45, poi con Romanzi in valigia alle 14 e l'edizione serale delle 22, edizione che va in replica la domenica alle 14. E sempre la domenica alle 8:10 un consiglio di lettura. Grazie in regia Pietro Lacorte. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.